Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi ci occupiamo di una vicenda sicuramente complessa, non so se sia una buona scelta per il 31 luglio, ma abbiamo provato a farlo. Una vicenda che potrebbe sembrare molto lontana e difficile da riportare nel concreto delle nostre vite di consumatori e cittadini. Eppure è molto vicina anche alle nostre abitudini di consumatori. Noi ci riferiamo allo scandalo Barclays sulla manipolazione del tasso LIBOR, anche se a me viene più facile chiamarlo LIBOR, ma anche ai molti dubbi che stanno iniziando a riguardare l'Euribor, il tasso cugino europeo, e quindi ci tocca in questo caso più da vicino. Questi due termini che cosa significano? Sono due parametri, il LIBOR e l'Euribor, che sono fissati dalle banche stesse, che definiscono gli interessi da pagare per prestarsi capitali a vicenda. La fissazione però di questi tassi non è avvenuta in maniera molto trasparente negli ultimi anni, almeno secondo quanto stanno appurando le autorità di controllo europeo. E adesso si sta sollevando un polverone, perché le ultime novità sono che il governo inglese ha aperto un'inchiesta formale. Negli Stati Uniti sta partendo anche un'azione collettiva, una class action promossa da una piccola banca. Perché ci interessa parlare di tutto questo? Perché chiaramente il comportamento delle banche si ripercuote sulla nostra vita, su quella delle imprese, visto che questi tassi vengono presi anche come punto di riferimento per definire le rate dei mutui a tasso variabile e anche i tassi di riferimento di prestiti che vengono erogati non solo alle persone fisiche ma anche alle aziende. Ecco perché ci interessano dunque le modalità con cui queste cifre vengono individuate, e ci interessa se si ravvisano possibili conflitti di interesse e manipolazioni. Allora, noi oggi a Salva Danaio affrontiamo di petto la questione, cerchiamo di ricostruirla, di renderla il più chiara possibile ai nostri ascoltatori grazie all'aiuto dei nostri esperti. Naturalmente ne ho dovuti chiamare molti per capire ogni aspetto singolo dell'intera vicenda. Allora, come influiscono o hanno influito le questioni sollevate in questi giorni sulle nostre rate? Ancora non c'è nessun tipo di influenza, non è detto che poi tra l'altro si manifesti, ma soprattutto chiediamo a voi ascoltatori: ci avete capito qualcosa dell'inchiesta LIBOR o Euribor? Che cosa avete letto sui giornali? Insomma, che cosa vi ha incuriosito? Raccontatecelo all'800 24 00 24, al 349 238 6666. Potete anche scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Con noi quest'oggi Andrea Gennai del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Per la precisione, il Plus 24 del Sole 24 Ore Plus è dedicato a questa vicenda, la sua storia di copertina sabato scorso, e ce l'aveva già anticipata anche venerdì nel corso della trasmissione l'altro collega che ha curato le pagine su questo tema, appunto Vitaliano D'Angerio. Alessandro Fracassi, amministratore delegato di MutuiOnline.it, buongiorno. Buongiorno, benvenuto, bentornato. Grazie. Anzi, perché non è da molto che si è seduto qui davanti a me. Da pochissimo. Poi un trader indipendente che ci racconta effettivamente anche l'operatività intorno a questi tassi interbancari per un singolo trader, ci racconterà qualche dettaglio in più rispetto a che cosa vuol dire manipolare questi tassi interbancari. Luca Barillaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Che tra l'altro rimarrà con noi pochi minuti, quindi lo spremo direttamente subito all'inizio della trasmissione per poi lasciarlo andare al lavoro. E poi, siccome c'è anche un'altra novità di tipo giudiziario, perché alcune associazioni dei consumatori hanno promosso appunto un'inchiesta, e questo sta succedendo alla procura di Trani, per addirittura arrivare alla possibile nullità di un contratto di mutuo agganciato all'Euribor, cercheremo di capire appunto che obiettivo ha un'iniziativa di questo tipo, che peraltro non viene condivisa da tutte le associazioni dei consumatori. Con noi questa mattina l'avvocato Giovanni Franchi della Conf Consumatori. Buongiorno avvocato, bentornato anche a lei. Buongiorno. Senti, grazie. Eccoci qua. Allora, solo in 3 secondi la borsa, perché vorremmo andare subito al tema di questa mattina. Borse positive, oggi il clima di attesa generale le spinge verso l'alto, le borse stanno anche guardando alle trimestrali, negli ultimi giorni ne sono uscite tante dagli Stati Uniti, in questi giorni invece sono fitti gli appuntamenti europei. Oggi, come vi dicevo prima nel giornale radio, sono stati diramati i dati di Deutsche Bank, di Commerzbank, di UBS e del Banco Bilbao Biscaglia.

fa dei numeri molto grossi. Qualche calcolo lo ha fatto anche Fabio Pavesi per il Sole 24 Ore di oggi, poi andremo anche nel dettaglio di questo articolo e ce lo racconterà Andrea Gennai. Però la cosa che incuriosisce, Barillalo, questa me la deve spiegare lei perché non l'ho capita bene. Allora, a parte il fatto che la banca inglese Barclays è stata multata per 371 milioni di euro il mese scorso dalle autorità di controllo sui mercati appunto inglesi per aver ammesso di aver provato, dice lei, a manipolare i tassi di interesse LIBOR ed Euribor tra il 2005 e il 2009. Chiaramente, se lei ammette di averlo manipolato, deve aver trovato anche qualcuno che ha consentito a questa manipolazione. Le controparti appunto saranno state d'accordo, per cui adesso si tratta di capire se altre istituzioni finanziarie appunto ammetteranno le loro responsabilità. La Commissione europea ha affermato che proverà, dice, a ristabilire la fiducia dei mercati, chiedendo agli stati membri dell'Unione di colpire chi abbia manipolato i tassi di interesse. Qui abbiamo le banche che fissano il LIBOR, ma anche le 43 banche internazionali che fissano ogni giorno l'Euribor sulle varie scadenze. Quello che volevo arrivare a capire, Barillaro, è che mi pare di aver letto tra le ricostruzioni appunto della storia che in realtà la manipolazione avveniva al ribasso, cioè l'LIBOR veniva fissato al ribasso rispetto ad un'ipotetica condizione di mercato. Quindi per quale motivo avrebbe provocato poi tutti questi danni la manipolazione? È proprio per questo che prima mi riferivo alla raccolta, nel senso che nel mercato obbligazionario, mercato primario obbligazionario di emissioni bond di grandi banche internazionali, solitamente, specialmente sul tasso variabile, si riferisce al fixing dell'LIBOR in un determinato giorno di emissione o un determinato giorno di calcolo della cedola futura. Quindi chiaramente, se io sono una banca che è fuori di diverse centinaia di milioni di dollari e ho interesse a ribassare il tasso variabile a cui pagherò la prossima cedola e so che il fixing è oggi, magari cerco di manipolare il prezzo al ribasso in modo da pagare una cedola leggermente inferiore che su un quantitativi nozionali molto alti mi causerà un risparmio sul tasso di interesse passivo pagato. Lei che fa il trader, Barillaro, le capita di effettuare delle operazioni su prodotti derivati agganciati all'LIBOR o all'Euribor? Certamente sì. Ma il problema del fixing dell'LIBOR è che in realtà i meccanismi della British Banker Association per evitare la manipolazione ci sarebbero anche, perché in questa intervista che viene fatta giornalmente alle banche inglesi vengono eliminati il 25% di coloro che sparano un prezzo troppo basso e il 25% di quelli che lo sparano troppo alto. Vengono eliminate le code della gaussiana, per dirla in breve. Quindi su 10 contributori, i peggiori due, i migliori due vengono eliminati e viene presa la media. Ma come in tutti i mercati, non solo quello finanziario ma anche quello dell'economia reale, se poi si viene a creare un ipotetico cartello è chiaro che tutti i meccanismi anti-manipolazione sono messi in dubbio. Se lei ritenesse di essere danneggiato da una situazione di questo tipo, appunto se venisse acclarata e conclamata Barillaro, insomma che tipo di reazione susciterebbe anche per quello che riguarda la sua attività? Ma non è tanto, penso, l'essere danneggiati o meno, è la perdita di fiducia. I mercati finanziari, lo vediamo in queste settimane, in questi mesi, si basano esclusivamente sulla fiducia. Alla base di tutto c'è la fiducia. Quindi se dovesse essere acclarata una cosa del genere sarebbe un colpo alla fiducia, che però potrebbe avere anche un risvolto positivo, cioè aiutare la lotta ai mercati non regolamentati e portare questo tipo di transazioni alla luce del sole su mercati regolamentati e quindi giornalmente visionati e supervisionati dalle autorità nazionali, quali Consob in Italia piuttosto che FSI in Inghilterra. Che situazione complessa, chissà se ce la faccio ad arrivare fino all'una questa mattina. Comunque Barillaro, io la ringrazio per averci dato il suo aiuto e il suo contributo, buon lavoro per adesso. Grazie, ci risentiamo voi, più avanti. Allora, c'era anche tra l'altro un ascoltatore che era pronto ad intervenire, lo vedo nella prenotazione sul mio monitor, Fabio da Prato, che segnalava se c'è stata una manipolazione c'è stata per abbassamento, non per far esplodere verso l'alto, chiaramente per praticarsi tra di loro le banche delle condizioni migliorative, ma poi là, come dire, ufficialmente il dato è un altro e sulle banche e sui consumatori, sulle imprese e sui consumatori si trasferisce un altro tipo di tasso. Detto questo, io cerco di banalizzarla proprio all'ennesima potenza la questione, perché veramente ricostruirla nel dettaglio anche per i nostri ascoltatori faccio fatica. Però Andrea Gennai, quello che diceva Barillaro è molto interessante ed è esattamente il principio che definisce questa mattina anche il collega Fabio Pavesi sulle Sole 24 Ore. Muovendo di un solo punto base il LIBOR, le grandi banche avevano ricavi aggiuntivi per svariati miliardi di dollari, con che ricadute anche sul sistema delle imprese, per esempio? Sì, diciamo l'analisi che ha fatto Finanza, la redazione Finanza è molto interessante perché al di là dell'aspetto del tasso interbancario, l'Ibor e Euribor, quindi i soldi, i tassi a cui le banche si prestano i soldi, giustamente come avete detto, la ricaduta pratica sui risparmiatori e sugli investitori è su vari fronti, in primis sui mutui, per le imprese soprattutto è sui derivati, sui tassi, perché le imprese per diciamo coprirsi dalle oscillazioni sui tassi di interesse sottoscrivono questi derivati con le banche. Qual è l'impegno? Il meccanismo sostanzialmente è che le imprese pagano un tasso fisso a lungo termine alla banca che a sua volta poi ripaga con tassi variabili riferiti all'IBOR. Ovviamente abbassando l'IBOR il guadagno ovviamente per la banca è esplicito e si parla appunto di 35 miliardi solo muovendo un solo punto base. Quindi possiamo immaginare la mole, diciamo così, di ricavi, la mole di soldi che circolano se solo la manipolazione fosse confermata e fosse anche di lievissima entità. Quindi c'è un impatto che ricade direttamente sui consumatori e c'è un impatto che ricade direttamente sulle imprese. Il principio è questo: ogni qualvolta ci sono degli accordi tra le parti, perché il fixing sostanzialmente è un accordo tra le parti, 30, 40, 50 banche, sono comunque numeri esigui dove le persone possono mettersi d'accordo. Ben altra cosa, come diceva Barillaro, è il mercato regolamentato, fatto cioè da soggetti, in maniera di soggetti come la borsa, come il mercato dei future, che si trovano su un mercato e se è il mercato stesso che fissa il prezzo con sistemi di compensazione e quant'altro. Quindi la lezione che deriva da questo caso è quello, diciamo così, di estendere più possibile l'utilizzo di indici sulla base di mercati regolamentati. Io ho sollevato su Plus di sabato scorso il caso dei CDS, cioè i credit default swap, che sono queste polizze che vengono scambiate a garanzia di un eventuale default di uno Stato. Ecco, anche in questo caso sono titoli che hanno un impatto fortissimo, ne sentiamo parlare spesso, che incidono sullo spread, quindi incidono sui tassi di interesse. Sono, diciamo, delle polizze che vengono, diciamo, fissate sulla base di prezzi tra le parti, quindi non sono regolamentate, non sappiamo i quantitativi che vengono scambiati. Ecco, sembra una cosa incredibile, però oggettivamente la finanza, che spesso ha dei lati molto, molto opachi, impatta direttamente sulle nostre tasche proprio perché non ci sono dei sistemi di regolamentazione che riescono in maniera trasparente a fissare dei prezzi generali. E come abbiamo detto anche tante altre volte, affrontando anche altri argomenti, in una crisi che è scoppiata dal 2007, che per la verità fa emergere anche episodi successi prima, perché Barclays ha ammesso di aver provato, pagando la multa in Gran Bretagna, di aver provato a manipolare i tassi di interesse tra il 2005 e il 2009. Comunque è una crisi che non ci insegna niente, perché ancora non regolamentiamo un bel niente. Il problema è poi, fracassi, andiamo a mutui online, però poco devo andare anche in pausa, magari anticipiamo già un commento prima di andare ai mutui. Il tema è come trasferire in un regime regolamentato tutto questo, no? Perché mi pare che sia piuttosto complicato. Sì, diciamo così, l'obiettivo era quello di avere un parametro di riferimento che dia l'idea il più oggettiva possibile di quello che è il costo del denaro per le banche e per tutti gli operatori. Trasferire da un sistema di fix a un sistema di mercato è una roba in realtà fattibile, da vedere quelli che poi sarebbero effettivamente gli impatti di questo. E poi in più anche un mercato regolamentato, cioè la famosa speculazione di cui sentiamo parlare, potrebbe avere anche lui degli impatti. Comunque è da vedere che poi siamo tutti dalla stessa parte nell'avere, cioè abbiamo un vantaggio effettivamente a passare ad una situazione totale di mercato. Allora, proprio nel periodo in cui l'Euribor ci ha dato invece tanta tranquillità, esatto, perché è così basso per chi ha mutui a tasso variabile sottoscritti qualche anno fa, adesso veramente gode di rate invidiabili che probabilmente non vedremo mai più nella storia, ecco che esce invece fuori questa nube che si addensa sul tasso appunto interbancario di riferimento di molti mutui. Questa mattina, per mandare un po' di traverso le vacanze ai nostri ascoltatori, abbiamo deciso di avventurarci in un tema complicato. Vi prometto che sarà l'ultimo per quest'estate, sto continuando a promettere di alleggerire gli argomenti, in certe giornate ci riesco, in certe altre no, però questo argomento era rimasto in sospeso, abbiamo deciso di trattarlo perché per la verità le novità continuano ad arrivare e l'ultima tra l'altro è arrivata proprio questa mattina, se ripesco l'agenzia adesso ve la leggo. Documenti e mail tra Milano e Londra sono stati sequestrati venerdì scorso, ma la notizia è uscita solo oggi, nella sede lombarda della Barclays, dalla Guardia di Finanza e dal pubblico ministero di Trani, Michele Ruggero, per l'inchiesta sui tassi Euribor. Lo hanno reso noto due associazioni dei consumatori che stanno tenendo sotto stretto controllo l'evoluzione di questa vicenda, sono Adusbef e Feder Consumatori, che hanno presentato peraltro la denuncia da cui ha origine l'inchiesta con condotta dalla procura di Trani, che sta chiedendo e forse potrebbe anche ottenerlo l'annullamento di un mutuo, cioè evidentemente si è partiti da un caso concreto, di un mutuo agganciato appunto all'Euribor, un prestito evidentemente a tasso variabile come quelli che hanno molte famiglie italiane, agganciato all'Euribor. E la procura di Trani dice, se dovesse verificarsi appunto ed essere confermato che il tasso interbancario appunto era manipolato dalle 43 banche internazionali che ogni giorno fanno il fixing anche di questo tasso interbancario, allora noi chiederemo l'annullamento di questo mutuo. Con quale ricadute? Adesso le commenteremo con l'avvocato Giovanni Franchi, ma mi chiedo, mutui online, che cosa ne pensi di tutto questo? L'Euribor è il vostro pane quotidiano, insomma, suggerite a tanti vostri clienti, anche suggerite, voi fate la comparazione appunto di offerte, ma l'Euribor adesso è così basso che effettivamente attrae molti potenziali sottoscrittori di mutui, anche se poi gli spread sopra sono molto alti in questo momento, questo è un altro problema. Che idea si è fatto di tutta questa vicenda? Alessandro Fracassi, non ho ricordato l'idea, il suo... Sì, ma io direi che ha detto correttissimo Barillaro prima. Il vero problema qui è innanzitutto l'impatto sulla fiducia, il fatto che ci siano degli ascoltatori che stanno scrivendo banche, eccetera, ecco, eccetera. Esatto, e questo è il problema, perché tra l'altro l'Euribor era stato scelto esattamente per dare trasparenza al meccanismo di variazione nel tempo dei mutui a tasso variabile, cioè un parametro terzo che doveva quindi dare l'idea di quello che era un po' il costo del denaro per le banche e che poi si traduceva in un costo per i consumatori. È quello che ogni tanto chiediamo, faccio una banalizzazione, con il prezzo della benzina, quando diciamo ci piacerebbe che il prezzo della benzina fosse espresso come un delta rispetto al costo del petrolio sul WTI, ecco. Esatto, no? E diciamo come mai quando va su, ecco, lì il meccanismo ce l'avevamo, cioè avevamo una cosa che legava il mercato, il prezzo, diciamo così, all'ingrosso, al meccanismo del costo per me, e questo il problema vero probabilmente non è su quello quanto sarà stato l'impatto, perché tra l'altro, come abbiamo già ricordato prima, potenzialmente per i mutui addirittura qui si cercava di tenerlo basso, quindi forse abbiamo avuto un vantaggio ognuno di noi da questo particolare scandalo. Dall'altro lato, chi invece aveva delle obbligazioni come quelle citate prima ha avuto degli svantaggi. Ci sono persone o aziende che hanno dei conti correnti che sono indicizzati l'Euribor, allora lì lo vorrebbero più alto evidentemente, perché gli si alza il rendimento. Ecco, io credo che più che l'impatto singolo, che alla fine, anche se c'è stato, e ancora non lo sappiamo, ma anche se c'è stato non sarà stato così forte, e poi per alcuni può essere in positivo e per altri può essere stato in negativo, il vero scandalo è la fiducia, cioè il fatto che una cosa che doveva essere terza, regolare, inattaccabile, invece a questo exit poll, che, come diceva giustamente prima Barillaro, si è risposto tenendo conto del ma perché mi fanno questa domanda, che interesse ho io nella risposta che darò. D'altronde facciamo molta fatica a pensare che nella finanza ci sia qualcosa di immacolato e assolutamente vergine, per cui effettivamente che questo lo fosse forse era anche del tutto impossibile pensarlo. Detto questo, però, ecco, esce fuori in maniera un po' clamorosa questa inchiesta. Certo, c'è da dire che tra l'altro quel mercato invece regolato dei futures a cui faceva sempre riferimento Barillaro fa un po' da calmiere a questa cosa, cioè per quanto questa cosa possa esserci stata, nuovamente dico, gravissimo, gli impatti, diciamo così, numerici non possono essere stati troppo elevati, poi vale quello che abbiamo detto prima, basta un millesimo di punto per avere a livello sistema un impatto molto grosso. Allora, dopo magari vi racconto anche qual è l'evoluzione degli ultimi giorni da un altro punto di vista, perché in questa guerra fra banche ce ne sono naturalmente chi manipolava, ma ci sono anche piccole banche che si ritengono totalmente danneggiate da questa. Non è che tutte fossero completamente d'accordo, qualcuna era all'oscuro, e c'è questo fronte aperto negli Stati Uniti da parte di Berkshire Bank, che chiede una class action contro i colossi dell'interbancario. Ne scrive sempre un collega del Sole 24 Ore stamattina, Stefano Carrer, che parla di una sorta di Davide contro Golia, perché effettivamente questo istituto è microscopico, ma in ogni caso se fosse danneggiato potrebbe aprire effettivamente un fronte. Alessandro Fracassi. Sì, ecco, volevo dire che questi sono i soggetti che invece sicuramente sono stati potenzialmente danneggiati, perché quando si va a leggere le carte dell'FSA si dice proprio che nel rispondere alla domanda, all'exit poll di prima, si teneva conto dei contratti che dovevo chiudere quel giorno lì, e magari erano appunto, questo è un mercato interbancario, quindi è inizialmente tra banche che eventualmente c'è stato, diciamo così, il conflitto di interessi che ha portato a diciamo così, lucrare ingiustamente su un contratto specifico, e magari Berkshire Bank è sul lato di quelli che hanno perso. E infatti la frode non ha permesso, dice esattamente questa banca, alle banche che si ritengono penalizzate di incamerare in modo pieno il reddito da interessi legati al tasso. Giovanni Franchi, buongiorno, tutto bene? Ci sente? Buongiorno, grazie. So che è in strada anche Giovanni Franchi, in condizioni rocambolesche questa mattina l'ho fatto fermare appunto per essere in diretta con noi. Allora, c'è questo giudice in Puglia che sta indagando sull'Euribor, la procura di Trani, che per la verità è molto attiva sui temi bancari e finanziari, perché ci sono molte cause che vengono presentate a questo tribunale da parte dell'Adusbef e da parte di una appunto delle più grandi associazioni dei consumatori particolarmente specializzate nel settore bancario. E allora, a quanto pare, sulla base di una causa appunto presentata proprio a questa procura, potrebbe arrivare addirittura in settembre con una sentenza veloce. Questo lo scrive e lo ricorda Vitaliano D'Angerio sul Sole 24 Ore, su Plus 24 di sabato scorso, che potrebbe appunto addirittura portare all'annullamento di un contratto di mutuo da 230.000 euro stipulato da un contadino, da un cittadino pugliese con uno degli istituti di credito italiani partecipano alla formazione del tasso interbancario Euribor. Allora, sono quattro le banche italiane che appartengono a questo consorzio, sono naturalmente le più grandi, è inevitabile: Intesa San Paolo, Unicredit, MPS e UBI. Quindi non si sa tra queste quattro chi sia quella che ha erogato il mutuo a questo cittadino che chiede l'annullamento di questo contratto. Allora, Franchi, molti si chiederanno perché non ho chiamato Adusbef o Federconsumatori che hanno promosso l'iniziativa, perché mi interessava capire chi invece non è d'accordo con una eventualmente pronuncia di questo tipo. Se la procura di Trani dicesse sì, questo contratto è nullo, che tipo di ricadute ci sarebbero su questo cittadino? Che cosa gli succederebbe in termini positivi? Ma succederebbe tutto in termini positivi? Allora, non c'è dubbio che se quanto sta trattando la procura di Trani fosse vero, saremmo obiettivamente di fronte a un cartello che comporterebbe la violazione della normativa antitrust. La violazione della normativa antitrust darebbe luogo, in base alla legge in materia, alla nullità del contratto. Ma la nullità del contratto, mi dico io, comporterebbe certo l'obbligo di rimborsare tutto, ma avere il tasso, non il tasso Euribor più spread, ma il tasso previsto dal codice civile, tasso bassissimo. Il problema però è un altro, che i soldi andrebbero restituiti tutti, e se i soldi vanno restituiti tutti e subito, è chiaro che diventa un problema per chi ha fatto un mutuo e per chi vorrebbe restituire i soldi quel tempo. Quindi la cosa va vista con attenzione. A mio avviso, se verrà accertato che c'è stato un cartello sull'Euribor, se verrà accertato che ciò ha provocato dei danni, e ho sentito che non è detto che ciò sia accaduto, allora si potrebbero esperire azioni di danni per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa di questo cartello e delle società bancarie che hanno provocato questo danno. E quindi lei suggerisce, ho letto su Plus, Franchi, se ce lo vuole specificare meglio, una causa di risarcimento danno da illecito extracontrattuale, se non ho capito male. Io suggerisco, anzi poi da Confconsumatori suggerisce, una causa da non illecito extracontrattuale, dipende, perché se il contratto è stato fatto con una delle banche responsabili di questo fatto, allora siamo di fronte anche a una causa contrattuale, in ogni caso una causa di danni basata su un comportamento illecito, un comportamento che ha violato la legge in materia. Comunque da qualche anno per i mutui non c'è proprio pace, tra i tassi interbancari che sono schizzati nel 2008, le rinegoziazioni, le surroghe, i vari pacchetti di Tremonti per dare una calmata a questi tassi che schizzavano. Adesso, se scopriamo pure questo fronte, speriamo veramente che venga scongiurato e che invece ci sia la massima trasparenza che possa essere dimostrata. Detto questo, bisogna proprio vedere come finisce anche questa causa alla procura di Trani. Lei, Fracassi, vuole aggiungere qualcosa su questo? È preoccupato per il versante che si potrebbe aprire? Ma sì, visto che con le banche lei volente o non volente ci combatte tutti i giorni per business. Sì, sì, ci lavoro anche, insomma, certo. No? Quindi no, direi che il dubbio normativo di andare potenzialmente a scardinare tutti i contratti di mutuo che sono in piedi mi sembra una cosa molto rischiosa, ed è correttissimo quello che è stato detto poc'anzi, che nel caso si dichiari nullo il contratto, poi il consumatore tutto, il cliente deve restituire tutto, quindi insomma, in più magari qualche... Adesso poi si entra un po' troppo nei tecnicismi. Oppure un ricalcolo immediato dell'Euribor, non lo so, ma chi lo fissa, sì, quello che potrebbe essere potenzialmente corretto, infatti, chi lo dice? Ma io credo che alla fine il danno poi sia anche veramente da dimostrare. Ribadisco, qui il danno vero è quello di totale, già ne avevamo poca, ma adesso ne abbiamo evidentemente ancora di meno. Allora, adesso sentiremo Simone da Prato e Roberto da Parma. A proposito di Simone da Prato, c'è un ascoltatore di Prato che ci scrive sul nostro profilo Facebook. Io credo che sia un consigliere comunale di questa città, perché ci racconta che a Prato hanno presentato un ordine del giorno sullo scandalo LIBOR. Swap, scandalo LIBOR, Prato valuti opportunità di azioni legali contro le banche coinvolte. Prato prende ad esempio, lo propone lui come mozione, dal sindaco e dal consiglio comunale di Baltimora negli Stati Uniti, che si sono costituiti parte civile in una causa antitrust legata a strumenti finanziari basati sul tasso LIBOR. Ma non ho capito esattamente se questa città ha anche qualche prodotto derivato per gestire meglio la sua tesoreria agganciata al tasso interbancario anglosassone. Ci mancherebbe altro che ci troviamo, però insomma potrebbe anche essere. Allora, qualche ascoltatore. Roberto da Parma, buongiorno. Buongiorno Deborah. Io ho chiamato perché controllando il mutuo che sto pagando su una seconda casa mi sono accorto di una cosa. Negli ultimi mesi ho avuto sistematicamente un andamento decrescente. L'ultimo mese, a fronte di ulteriori ritocchi al tasso di riferimento, mi sono ritrovato una rata maggiore. Ciò è possibile? E che volevo sapere, maggiore di quanto più, Roberto, perché magari non vorrei maggiore di una decina di euro. Quindi capire, allora ci può dire nel dettaglio qual era il tasso a cui è agganciato un Euribor a un mese, tre mesi, sei mesi, un anno? Tre mesi. Il trimestrale? Me lo devo andare a controllare pure io, Roberto. Sì. Che è successo? No, l'Euribor è sceso, sta continuando a scendere. Esatto, sì, mi sembra difficile. Allora, due cose. Uno, bisognerebbe verificare che non ci sia qualche costo amministrativo periodico, che potrebbe esserci, ci sono i costi annuali, dei costi di assicurazione, cioè altri costi che non sono tasso di interesse. Quindi se c'è il dettaglio nella rata e se non la... Però qualche decina di euro mi sembra un po' troppo per essere legato ad una commissione legata all'utilizzo del conto corrente. Del conto corrente, del mutuo. Ogni tanto ci sono delle spese amministrative periodiche legate al mutuo, oppure legate all'assicurazione, legate al mutuo. Questo può essere, bisognerebbe vedere l'estratto conto. L'altra cosa che rende ogni tanto un po' più complicato, però in questo caso francamente mi sentirei di escluderlo, è che ogni tanto ci sono delle medie che vengono fatte. Però la verità è che l'Euribor francamente sta scendendo da tanto. E non solo è rasoterra, è che sta scendendo. Tra l'altro, quindi, di solito quello a tre mesi è molto vicino anche al tasso della BCE, che adesso è sotto l'1%, perché è allo 0,75. Adesso non mi ricordo esattamente quanto potrà essere oggi l'Euribor a tre mesi. 0,40 credo addirittura sia una cosa così. Quindi possiamo verificarlo. Va bene, sì. Comunque Roberto, magari controlli un po' meglio, chieda informazioni e veda se è proprio riconducibile alla rata che si è modificata o ci sono appunto altre spese accessorie che sono state applicate in questa mensilità e in questa scadenza, e quindi potrebbe essere tutto chiarito facilmente. Se in caso contrario le spiegano in banca che invece è la rata che è aumentata perché è riconducibile l'aumento al tasso di riferimento, ce lo racconti, perché invece la banca non le ha dato la spiegazione corretta. E molti ascoltatori appunto si stanno chiedendo che tipo di conseguenze potrebbe avere se effettivamente, ancora lo ribadiamo, questo tribunale di Trani dichiarasse la nullità del contratto di mutuo sottoscritto dalla persona che ha fatto la sua causa. Sono conseguenze inimmaginabili, perché potrebbero forse anche essere conseguenze che riguardano solamente la singola persona. Non so se ci fosse anche una possibilità di cause complessive, se ci potesse essere una ricaduta di questo tipo, non lo so, io adesso non mi soffermerei su questo, vedremo che cosa accadrà a settembre. Intanto però insomma gli ascoltatori si stanno chiedendo anche questo. Un ascoltatore dice: la banca restituisce i soldi e subito glieli rendono perché ha i requisiti ancora attivi. Fracassi, tutto sommato l'ascoltatore non ha torto, se me lo avevi erogato prima il mutuo, allora io magari te lo posso anche restituire al volo, ma poi tu mi devi... Però è un processo veramente che sarebbe inedito anche per una banca, non credo che sia mai successa una cosa del genere, sì, a prescindere poi credo dalle che Euribor. Ognuno dovrebbe decidere di procedere in questo modo, nel senso che io francamente non conosco i dettagli, né voglio addentrarmi in quello che sta succedendo alla Procura di Trani, quella è una singola posizione. È chiaro che se anche venisse provato, poi ognuno dovrebbe decidere di promuovere, valutando se ne ha avuto un danno, queste azioni. È vero, è quello che dice l'ascoltatore, è possibile, naturalmente con nuovi costi di un nuovo contratto dal notaio e quant'altro, perché infatti, se però, è nullo bisogna rifarlo da capo. E infatti, Andrea Gennai, che ne pensi di tutta questa? Probabilmente stiamo parlando anche per, non so, penso a un mutuo di 200-250 mila euro, poi alla fine di cifre risibili, se si parla di manipolazioni dello 0,01, quindi io non so, ecco, ci sarebbero degli effetti oggettivamente Sembra di capire che l'idea sia quella di andare a creare un precedente da parte sia delle associazioni dei consumatori che di questa procura che del magistrato. Probabilmente si è individuato forse un cittadino disponibile ad aprire una causa di questo genere, perché anche lui che interesse ha effettivamente, quanto potrà essere stato danneggiato da una presunta manipolazione. È più una questione di principio, nel senso che sabato prossimo su Plus riprenderemo l'argomento pubblicando uno studio di un centro studi da dove emerge che il rischio che l'Euribo sia stato sottostimato è un rischio reale. Sono state fatte delle osservazioni, ora non anticipo altro, ma sabato appunto i lettori lo troveranno. Quindi il problema è stato, come si può dire, studiato, analizzato, e ci sono appunto dei rischi di sottostima, quindi come si può dire. Però mi incuriosisce che io mi ricordo anche quando ho fatto il mutuo io nel 2004, comunque non era tanto diverso rispetto al tasso di riferimento della BCE, per cui effettivamente la manipolazione di quanto, per quanto se fosse acclarata, lo ribadisco, sarebbe una cosa scandalosa, per cui è chiaro che le banche vanno rimesse a posto, deve essere data una regolamentazione diversa, fracassi, però no, ma se posso ricordare, cioè, se una ci fossero volta dei movimenti nel mercato ante crisi, quello che succedeva è esattamente quello che si ricorda lei, cioè che non c'era una grande differenza e si muoveva in maniera abbastanza concorde l'Euribor con il tasso BCE. Qualche punto in più per considerare i rischi, perché è interbancario, e quando uno andava su, esatto. E quando uno andava su, l'altro lo seguiva, quando uno scendeva, l'altro scendeva. Dal momento della crisi, cioè da quando il rischio di controparte delle banche, cioè le banche hanno cominciato a percepire che c'erano dei rischi di controparte, l'Euribor e il tasso BCE hanno cominciato ad avere una storia separata. Prima abbiamo visto l'Euribor che è salito molto di più del tasso BCE. Io ricordo il governatore Draghi che aveva detto: dovremmo fare i mutui con il tasso BCE, e infatti poi li qualche hanno banca fatti. Lo ha fatto, infatti poi è stato messo, però non hanno avuto un gran successo, fracassi, Proprio perché il tasso BCE non rappresenta il costo vero del denaro, per i nostri gusti. Non rappresenta il costo del denaro per la banca, perché purtroppo poi oggi lo rappresenta di più dopo che sono state fatte tutte le varie linee dalla BCE. Però poi il problema lui, secondo me, in questo momento con un interbancario 0,40 non è tanto il tasso in sé, ma quanto gli spread. Ma questo l'abbiamo detto anche prima. È sugli prima. Spread che si gioca proprio la differenza tra le singole banche. E infatti, allora andiamo. Simone da Prato, niente, lo peschiamo, poi lo riperdiamo. Le dico, fracassi, Simone da Prato voleva banalmente chiedere qual è il miglior mutuo a sottoscrivere in questo momento, come se si potesse dare una ricetta che va bene per tutti. Qua purtroppo la ricetta del mutuo è del tutto individuale. Detto questo, però, possiamo dare un orientamento di massima sulle differenze che ci sono fra il fisso e il variabile, magari in questo momento, così un'indicazione di massima la diamo al nostro ascoltatore. Ma in realtà lei l'ha già detto prima, in questo momento i tassi di riferimento sono ad un minimo storico, quindi evidentemente, al di là che ci sono differenze di spread che venivano citate prima, questo è un momento in cui si può fare un mutuo molto conveniente. La differenza tra fisso e variabile è nella sostanza tra chi ritiene di avere un reddito che in qualche maniera è anch'esso legato all'andamento dei mercati, chi invece ritiene di avere un reddito che insomma e non vuole esporsi a nessun rischio di andamento del tasso dovrebbe andare più su un tasso fisso. Mi viene da dire, io tendo a consigliare sempre in generale il tasso variabile. Però devo dire che se uno mai volesse fare il tasso fisso, questo forse è il momento di farlo, perché così bassi sarà difficile ritrovarli, per quanto ci sia la differenza spread, una carica sopra, un ricarico sopra non indifferente. Allora, Giovanni Franchi, non mi sono dimenticata di lei, l'ho fatta giocare appunto a fare il suo lavoro, che è quella del legale, appunto, sia professionalmente lo fa per conto suo, ma anche appunto per conto della Conf Consumatori. Tornando un attimo a questo interrogativo che si stanno ponendo molti ascoltatori sulle eventuali conseguenze di una pronuncia positiva a favore del cittadino che ha inoltrato appunto questa causa da parte della Procura di Trani, lei come la vede, insomma, sul possibile impatto e ricaduta sul sistema bancario complessivo? dobbiamo ipotizzare. Intanto bisognerà vedere quale sarà il provvedimento. Ovvio che ove il provvedimento fosse di nullità ma limitata al solo tasso di interesse, e cioè non all'intero mutuo, allora è chiaro che sarebbe un precedente importantissimo e potrebbe essere utilizzato avanti anche altri tribunali, sempre però tenendo conto che ogni tribunale decide a modo suo, per ottenere una ulteriore riduzione del tasso fino ad arrivare al tasso previsto dal codice civile. Certo è che oggi, sulla base di quelle che sono le risultanze della procura, chi può veramente avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto coloro che per garantire l'andamento del tasso hanno stipulato i cosiddetti interest rate swap, e cioè dei contratti basati sui derivati, e sono soprattutto le imprese a cui si diceva: vuoi evitare che il tasso aumenti? Allora fai questo contratto che vedrai che risparmierai. Invece è accaduto che il tasso è diminuito e ci sono imprese, comuni e anche consumatori che stanno pagando un sacco di soldi, e questi invece potranno ottenere la restituzione di tutto ciò che è stato indebitamente trattenuto sulla base di questo falsa diminuzione del tasso sulla base dell'Euribor, come si è detto. Insomma, però è ancora tutta una storia da scrivere e probabilmente appunto ne riparleremo a settembre in un senso o in un altro, sia che il Tribunale Civile di Legge si pronunci per l'annullamento di questo mutuo, sia che faccia appunto il contrario. Intanto ancora fracassi, mutui online, prestiti online. L'ascoltatore da Foggia, Antonio, ci dice e ci racconta che la settimana scorsa andiamo e saltiamo un po' di pali in frasca, ha sottoscritto una cessione del quinto al 17,5%, mi sembra esagerato, sono effettivamente un po' i prestiti personali più costosi. Adesso la interrogo, sì, così brutalmente, come valuta questo tasso che ci racconta? La cessione del quinto è uno dei metodi più non costosi. È agganciato né all'Aibor né ad Euribor. È un tasso fisso, quindi in qualche maniera è alla fine comunque agganciato ai mercati. Bisogna ricordare che la cessione del quinto è un prestito che ha dentro anche tutta una serie di garanzie, che sono per la perdita del posto di lavoro e anche per la caso morte, insomma, un'assicurazione sulla vita che fa sì che nel caso succedano uno di questi eventi disgraziati va a ripagare la finanziaria e non finisce né sugli eredi né invece se uno perde il posto di lavoro c'è qualcuno che paga il posto suo, quindi diciamo che questo costo finisce per pesare abbastanza significativamente all'interno di questo tasso che il consumatore ci... Allora, noi stiamo andando verso la chiusura, c'era anche un altro ascoltatore, Fracassi, che voleva intervenire, qui siamo fuori dal seminato di questa mattina sui tassi interbancari, perché gli è ricapitata la stessa situazione dell'ascoltatore che ci ha chiamato in precedenza, cioè con una rata che stava costantemente scendendo e teoricamente doveva continuare in questa strada virtuosa, in realtà si è ritrovato l'ultima rata che è ritornata verso l'alto. Allora io stavo pensando al meccanismo che c'è nella combinazione fra la restituzione della quota capitale e quella della quota interessi. Non vorrei che fosse ritornato, che praticamente la quota interessi stia progressivamente diminuendo. Sì, potrebbe anche essere questo meccanismo, a seconda di qual è il meccanismo con cui viene fatto il ricalcolo delle quote capitali. Ci sono alcune, è vero, è possibile, nel senso ci sono alcune banche che fanno il calcolo delle quote capitali tutto all'inizio, cioè quando viene sottoscritto, e poi non lo variano più, e quello è il modo con cui si restituisce il capitale, e quella parte è inerentemente crescente. E la parte invece di interessi è quella che all'inizio è tanta e poi pian piano decresce. Quindi è vero però che ci sono alcune banche che invece ogni mese ricalcolano la ridistribuzione delle quote capitali. Mm-hmm. Ci sono due scuole di pensiero su questo, adesso si sta entrando veramente sul tecnico. Sul però tecnico è un però buon punto, effettivamente, però in effetti ha ragione. Perché stavo pensando alla mia, effettivamente. A seconda della banca con cui uno l'ha fatto, ci sono alcune banche che ricalcolano il piano d'ammortamento delle quote capitale ogni mese, e quindi in realtà questo effetto non ci sarebbe, e invece banche che lo calcolano una volta all'inizio del mutuo e te lo allegano anche all'atto, e allora lì si vede che c'è un aumento. Se si è abbastanza avanti nel piano di ammortamento, la quota di capitale potrebbe aver più che compensato la riduzione della quota interessi. Però voglio dire, magari la rata diventa più alta, però globalmente la restituzione del mutuo dovrebbe essere più forte, no? Assolutamente. Quindi l'impatto poi sulla parte... Dovremmo essere in entrambi i casi però molto vicini alla fine del mutuo, sia dell'ascoltatore precedente che di questo. Esatto, infatti mi è venuto adesso questo dubbio perché così stavo un po' ragionando. Speriamo di aver aver reso le idee chiare ai nostri ascoltatori. Questa mattina ci siamo avventurati veramente su un terreno complesso, però insomma su questo caso ne sono pieni i giornali, ci è sembrato il caso di ritornarci e di mantenere insomma la dovuta attenzione. Io ringrazio molto Andrea Gennai, Alessandro Fracassi che sono qui in studio con me per essere stati con noi, anche l'avvocato Giovanni Franchi che era in giro per lavoro e l'ho fatto fermare in un autogrill addirittura, quindi veramente abbiamo combinato di tutto questa mattina. Grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Robby Scaltritti in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata a tutti.